Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Salvatore Laiso fino al 2009 ha ricoperto un ruolo di rilievo all'interno del clan dei Casalesi e in particolare della famiglia Schiavone. Era una sorta di luogotenente di Nicola Schiavone, indiscusso leader della famiglia nel comune di Trentola Ducenta e nell'intero agro aversano. Insomma, pur non essendo uomo di Casal di Principe, aveva raggiunto una posizione certamente non gregaria nel sodalizio. Raggiunto da misura cautelare per gravissimi episodi, ha iniziato a collaborare recentemente e di svelare struttura, interessi, composizioni, modalità operative, delitti riferibili alla famiglia Schiavone di cui aveva appunto fatto parte. Interrogato dai PM il 27 gennaio 2011, ecco cosa dichiara. Nel corso della stessa riunione, o forse in una successiva, Raffaele Iovine ci disse che era stato convocato da Massimo Russo, presso il quale si era recato, e in tale occasione Massimo Russo gli comunicò che il nostro amico era stato ucciso non tanto per la droga che vendeva o i soldi che rubava, ma per il fatto che aveva tirato uno schiaffo ad una loro persona. Nella terra di Gomorra si può dunque morire per uno schiaffo dato alla persona sbagliata nel posto sbagliato. Paradossi di Camorra che richiamano altri paradossi, come quello del figlio soldato del boss di Napoli Raffaele Stolder, che non ha paura della Camorra, ma della guerra. Sì, proprio così. In un verbale del 21 aprile 2008, in una serie di interrogatori, Anna Carrino, moglie di Francesco Bidognetti, ricorda il rapporto di sovvenzionamento, amicizia e reciproco sostegno che, su disposizione del convivente, si era allacciato per iniziativa del marito con la famiglia del boss Raffaele Stolder, al cui figlio avevano cercato prima una raccomandazione sotto le armi, andata poi a monte per la paura che il figlio stesso potesse partire per qualche fronte di guerra con i contingenti italiani in giro per il mondo. Buona vita e a domani.